notte combatti, dai sempre il meglio di te. Non dar mai le spalle alla vita, e il coraggio lo trovi da te. Per sognare quello che vuoi, per raggiungere quello che sai. Campione nel mondo e nel cuore tu sarai. Ama senza riserve, da sicuro va bene così. Stringi forte la mano all'amico, metti sempre i tuoi occhi nei suoi. Per sperare nel domani, per sorridere non smettere mai. Campione nel mondo e nel cuore tu sarai. Per te devi sempre lasciare che sia amore e vita dar vita in te. Per raccogliere quello che vuoi, per dire grazie a quello che sai. Campione nel mondo e nel cuore tu sarai. Desire.